2024 di Enrico Pagliarini. Beh, devo dire che la settimana si è conclusa con una notizia bomba, perché a New York, nello stato di New York, il governatore Andrew Cuomo ha firmato una legge che rende illegali gli annunci di affitto di appartamenti per periodi inferiori a 30 giorni su siti internet del tipo di Airbnb. Quindi Airbnb è illegale, almeno per gli appartamenti completi. Rimane il dubbio, ma bisognerà leggere per bene la legge che è stata firmata appunto alla fine della settimana. Quindi dalla prossima settimana vedremo magari qualche dettaglio in più. Bisogna capire se ad esempio affittare la stanza di un appartamento dove si vive è legale. Comunque è una notizia di cui si sta parlando negli Stati Uniti da settimane, sicuramente molto importante, che arriva da una grande capitale dove Airbnb fa un fatturato incredibile, tant'è che Airbnb ha speso finora circa 10 milioni di dollari in attività di lobbying, di pubblicità, per cercare di combattere questa legge. Però per il momento questa è la decisione, poi ci sarà un ricorso, ci saranno tutta una serie di azioni, vedremo come andrà a finire. Dicevo, una notizia che arriva da una città molto importante e soprattutto dagli Stati Uniti, dove questi siti internet che fanno parte e rappresentano l'evoluzione della sharing economy sono nati e si sono evoluti, sono diventati dei giganti della rete. Quindi è una notizia sicuramente che andrà commentata, su cui nei prossimi giorni vedremo e leggeremo molti commenti. Non penso che accada nulla di questo nella costa occidentale, che è molto più liberista, molto più attenta alle novità tecnologiche, però è un segnale importante su cui tra l'altro si baseranno anche molte delle posizioni in Europa, dove non è detto che poi la politica sia ricettiva. Ad esempio l'Unione Europea è abbastanza pro sharing economy, molto liberista, ma ci sono alcuni stati, alcune posizioni anche in Italia che non lo sono affatto. Magari queste cose vanno regolamentate, così come sta facendo e sta tentando di fare il Parlamento italiano, dove c'è una proposta di legge di questo genere, ma insomma sicuramente molto, molto interessante, molto importante come dibattito. Alcune notizie in breve della settimana nelle nostre Digital News. Digital News. A proposito della proposta di legge che riguarda la sharing economy, come regolamentare la sharing economy, abbiamo realizzato in primavera un'intervista proprio su questo, quindi andate nel nostro archivio su www.radio24.it e cercate Sharing Economy all'interno di 2024, oppure scorrete la lista di nostre puntate. Dunque, iniziamo da un paio di notizie che riguardano il mondo delle automobili. La prima arriva da Bloomberg, secondo cui Apple avrebbe ridimensionato il proprio progetto Titan, che alcuni ritenevano fosse finalizzato alla costruzione di un'auto elettrica e in prospettiva poi di un'auto a guida autonoma. Per questo Apple aveva creato un team di 1000 persone che ora è stato ridimensionato. Alcuni se ne sono andati, altri sono stati licenziati, altri si sono spostati in altre divisioni di Apple, ed ora la società dovrebbe concentrarsi solo su software per la guida autonoma. Digital News. E a proposito di guida autonoma, Tesla nel frattempo rilancia il proprio impegno verso automobili che si guidano da sole. Il fondatore Elon Musk ha annunciato in settimana che le Tesla prodotte da questo momento avranno tutte un nuovo tipo di autopilot, che si chiama Enhanced, quindi evoluto, completo di nuovi sensori e un sistema chiamato Tesla Vision, in grado di guidare l'auto da sola a fronte di un aggiornamento software. Oggi il grado di automazione delle Tesla è di 3 su una scala di 5, cioè le 5 su una scala che è stata definita nell'ultimo anno sono proprio le auto a guida completamente autonoma. Adesso Tesla è a livello 3, però devo dire che hanno mostrato un video dove il pilota tiene le mani vicine al volante ma non lo tocca mai, e l'automobile parte dal garage di casa, esce dal garage automaticamente e secondo un percorso che è stato impostato sulla mappa e sul navigatore dell'automobile arriva fino al lavoro, presso la sede della Tesla. Il passeggero esce, va nel suo ufficio, l'automobile chiude la portiera, va a cercare parcheggio, si parcheggia da sola e si spegne. Digital News. Un'ultima notizia riguarda il video online. C'è un nuovo protagonista nel mercato del video on demand. Vimeo, che è il principale concorrente di YouTube e dove si trovano prevalentemente video di alta qualità. Alta qualità non solo perché sono in HD praticamente tutti i video, ma molti video, diciamo, ma di alta qualità anche artistica. Allora, Vimeo ha lanciato un servizio on demand per acquistare intere serie televisive o singoli episodi. Il servizio è disponibile anche in Italia, ma per il momento solo in lingua inglese. Adesso vi leggo tre notizie che non ho inserito nella nostra rubrica delle Digital News perché ci servono per introdurre il nostro primo ospite, il nostro primo argomento. Allora, la prima notizia riguarda i 626 cyber attacchi alle infrastrutture critiche italiane, quindi reti elettriche, reti del gas, cose del genere. Sono stati rilevati dal Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche, al quale sono arrivati, pensate, quasi 4.000 alert relativi a minacce potenziali, attacchi, vulnerabilità di vario genere. Sono arrivate sia da enti pubblici che da privati. In base a queste sono state avviate 52 indagini che hanno portato tra l'altro anche alla denuncia di 20 persone. Un'altra notizia riguarda una vicenda di cui si è parlato poco in Italia. Negli Stati Uniti è stato arrestato un altro collaboratore della National Security Agency, la NSA, la stessa per cui lavorava Elon Musk. Si chiama Aaron Martin, è stato arrestato in agosto e secondo le ultime notizie, secondo l'FBI, ha rubato almeno 500 milioni di pagine di documenti governativi che includono informazioni top secret relative a operazioni militari. Però a questo punto insomma, è un problema piuttosto serio, perché tra l'altro questa persona lavorava per la Booz Allen Hamilton, che lavora per la National Security Agency, ed è la seconda volta che succede, appunto dal 2013, quando fu Edward Snowden a fare pubblicare molti documenti riservati e rubati all'agenzia di intelligence americana. Sempre dagli Stati Uniti arriva la notizia che dell'ultimo giorno di questa settimana, la settimana diciamo si conclude con un vasto attacco ad un gestore di nomi a dominio chiamato DIN. DIN ha dichiarato che gli hacker hanno colpito almeno per un paio di volte con un tipo di attacco chiamato DDS, Distributed Denial of Service, che è una tecnica piuttosto semplice che consiste nel sovraccaricare di traffico i server mandandoli in tilt, magari utilizzando una rete di computer infetti da virus. Però allora, certamente non è una cosa alla portata di tutti, ma non è nemmeno un attacco complicatissimo. Allora, è difficile dire se questo episodio rientri nel braccio di ferro fra Russia e Stati Uniti. Sapete che gli Stati Uniti hanno più volte, e più persone negli Stati Uniti hanno denunciato gli hacker russi, o comunque la Russia, addirittura proprio il governo russo, di attacchi ai danni dell'amministrazione americana, in modo particolare mirati a far saltare il banco della corsa alla Casa Bianca, quindi un attacco proprio alle elezioni, a questa campagna elettorale. Quindi è molto difficile, però sicuramente è una notizia interessante. Ci sono stati problemi a raggiungere siti internet come Twitter, Spotify, New York Times, Financial Times, Netflix, Visa, eBay, eccetera, eccetera, altre decine di siti. Allora, sicuramente ci sono tutte notizie legate alla sicurezza informatica, ci sono problemi organizzativi legati alle persone e alla capacità di tenere sotto controllo queste persone per far sì che non sfugga nulla, perché uno può installare qualsiasi software, ma poi se la persona ruba documenti ci puoi far poco. Però sicuramente il problema organizzativo è un problema molto serio, e poi c'è un problema tecnologico. ma abbiamo un ulteriore problema, perché i danni, gli attacchi sono in crescita esponenziale e il numero di esperti in tutto il mondo, ma in particolare in Italia, è inadeguato alle esigenze del mercato. Di questo ho parlato con Alessio Pennasilico, che è Security Evangelist di Obiettivo Technology e membro del comitato direttivo del CLUSIT, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, partendo da alcune considerazioni su questo mercato che è in crescita. Quindi il mercato cresce, ma il problema è trovare professionisti adeguati alle esigenze del mercato. Accadono sempre più incidenti e sempre più gravi nel mondo delle aziende per quel che riguarda il versante tecnologico. Questo evidentemente porta ad una preoccupazione sempre maggiore da parte delle aziende e di conseguenza al volersi proteggere in maniera efficace. Questo evidentemente passa per persone che devono sapere come difendere non soltanto il versante tecnologico, ma proprio il come tutelare l'azienda da certi tipi di truffa, da certi tipi di attacchi, e quindi c'è richiesta sul mercato da parte delle aziende di figure in grado di svolgere questi compiti. Questo è un mercato che cresce. Un mercato che cresce rispetto al mercato tecnologico in generale, che spesso registra crescite ad una cifra percentuale, è un segmento che cresce di almeno due cifre percentuali. È vero che, è una cosa che mi dicono in molti, si fa molta fatica a trovare professionalità, professionisti che capiscono qualcosa di security. Capisco che sotto il nome security ci può andare sotto un po' di tutto, però stiamo parlando del settore della sicurezza informatica. È verissimo, per portarti un numero rappresentativo, nell'azienda dove lavoro io esaminiamo almeno 30 persone per assumerne una. Quindi la domanda c'è, di offerta ce n'è tantissima, ma di offerta qualificata evidentemente non così tanta, per tutta una serie di ragioni che vanno dalla mancanza storica di percorsi formativi specifici al fatto che è un tema comunque molto nuovo. Sì, poi l'altro problema è non tanto che ne vedi 30 su magari molti più curricula che ti sono arrivati, ma il problema è che ci metti molto tempo a trovarle, proprio perché sono scarse le professionalità. Ci mettiamo dei mesi a volte per poter chiudere una posizione aperta, proprio perché appunto sotto security vanno una enormità di competenze molto diverse tra di loro, e spesso anche nella scrematura iniziale dobbiamo escludere persone competentissime ma su cose che non sono quelle che stiamo cercando noi, ma che comunque finiscono sotto il titolo di security. Mi dai un'idea sui percorsi formativi, se ne esistono? Perché mi sembra di capire che qui stiamo parlando di un mercato che richiede molti professionisti, ma con pochi percorsi formativi regolari, cioè molte di queste persone sono smanettoni autodidatte, o esagero? Ma in alcuni casi sì, esageri, perché smanettone è una parola molto forte. Sull'autodidatta è un po' offensivo per tutti quelli che lavorano nel settore. In alcuni casi sì. Detto questo, autodidatti per certo, molti brillanti professionisti di oggi sono persone molto curiose che hanno investito notti del proprio tempo libero per imparare determinate cose, che poi sono andate magari a formalizzare con qualche certificazione, con qualche attestato, ma fondamentalmente che si sono costruiti il proprio percorso formativo in autonomia. Evidentemente la grande richiesta che c'è in questo momento sta portando all'aumento dell'offerta formativa in proposito, quindi si stanno organizzando le università, da tempo ci sono diversi corsi privati, però ripeto, è un mercato così giovane che impiegherà ancora molti anni a consolidarsi. Se tu 20 anni fa andavi a chiedere di un percorso formativo per l'informatico, non c'era, c'era solo l'ingegnere elettronico. Immagina questo professionista della security quanto recente possa essere. Certo, però diciamo che se in generale è vero che nel mondo dell'informatica, dell'IT, la richiesta supera di gran lunga l'offerta di professionalità, forse questo rapporto nella security è ancora più sbilanciato, e quindi è anche un consiglio che diamo a chi deve investire risorse per formare, magari anche per consigliare i propri figli. Sì, da un punto di vista della facilità con cui si potrebbe trovare lavoro, ogni tanto mi sento di dire anche, però pensateci bene, perché una vita d'inferno significa vivere di problemi altrui, di continue preoccupazioni, la gastrite perché vedi le cose che non vanno come dovrebbero essere, quindi è una vita che va scelta, come quasi tutte le professioni, cioè, devi crederci, non è un lavoro che fai, è un lavoro che sei. Sì, senti, che tipo di problemi stanno accadendo? E qui usciamo dal discorso professionalità, posti di lavoro e entriamo nelle aziende, soprattutto le piccole e medie aziende, perché lo diciamo spesso anche a 2024, diamo per scontato, poi non è così vero sempre, però che le grandi abbiano sia professionisti all'interno, sia competenze, anche capacità di investire risorse per tutelarsi in maniera, diciamo, almeno a livello medio-alto. Ecco, uno dei grandi problemi riguarda le medie e piccole aziende, che sono tantissime, che hanno proprietà intellettuale, che hanno un sacco di dati di grande valore e che quindi dovrebbero riuscire a proteggere questi dati. La situazione qual è? Che cosa sta succedendo? Ripesco uno slogan senza fare il nome di un vendor che lo usava diversi anni fa: la piccola azienda non ha bisogno di una piccola security, ha bisogno dello stesso livello di sicurezza probabilmente delle grandi aziende, avendo una capacità di investimento, come correttamente dicevi, molto diversa. Io credo che anche in quel contesto, come in quello della grande azienda, il problema non sia tanto quello del trovare lo strumento tecnologico corretto. L'offerta in termini di strumenti è buona, esiste oggi, migliorabili quanto vogliamo, ma ci sono le risposte ai problemi. Quello che spesso manca è, parlando di piccole e medie imprese, la consapevolezza circa l'esistenza di alcuni problemi e quindi la necessità di indirizzarli, e poi, avuta questa consapevolezza, la capacità di scegliere correttamente le persone e gli strumenti per indirizzare il problema. Il problema è così grande che ad un certo punto se n'è occupato perfino lo Stato italiano con alcuni decreti legge per qualificare quelli che vengono definite le professioni non regolamentate da albi, proprio per permettere anche al piccolo artigiano di distinguere tra due persone che si vanno a presentare offrendo gli stessi servizi, chi ha un certo tipo di professionalità alle spalle e chi no. E come faccio a capirlo? Esistono delle certificazioni valevole per leggi che vengono rilasciate dagli enti di certificazione che sono in grado di certificare appunto che la persona che è di fronte possiede determinate competenze regolate secondo un modello europeo che definisce alcuni tipi di professionalità. Certo, comunque questo rimane un aspetto problematico, cioè capire qual è l'esperto di sicurezza, il consulente che deve proteggere la tua azienda di fronte a una materia che è molto complicata, di cui magari io imprenditore non capisco nulla. Ma come al solito temo che il percorso dovrebbe essere mutuare l'esperienza che abbiamo in altri campi in questo. Io un esempio che faccio molto spesso è il caldaista che viene a casa mia a farmi la manutenzione alla caldaia. Non è uno qualsiasi che ho cercato sulle pagine gialle, è qualcuno che è stato autorizzato a fare quel tipo di intervento e probabilmente proprio su quel tipo di caldaia. Questo non voglio dire che è lo stesso approccio che dovremmo utilizzare nell'ambito dell'informatica, però cercare di distinguere chi è il tuttologo, il tuttofare o che non ha un'esperienza o una competenza specifica su quel tema da chi invece ce l'ha, questo è assolutamente un'esigenza, soprattutto per chi non ha le competenze per poter scegliere. Senti, uno sguardo su, come dicevo prima, quello che accade in azienda in termini di attacchi. Diciamo sempre le stesse cose che dicevamo magari un anno o due fa, cioè grandissimi attacchi cosiddetti ransomware, quindi ricatti digitali, cioè mi attaccano, mi bloccano i dati e mi chiedono un riscatto se io non pago, tutte le mie macchine sono bloccate. Poi c'è chi dice non bisogna pagare perché si entra in un loop senza fine. Non bisognerebbe pagare, perché non bisognerebbe dare del denaro ai criminali. In alcuni casi, soprattutto nei contesti più piccoli, dove magari non c'è un backup di quei dati, non c'è una copia che permetta di poterli recuperare, pagare il riscatto diventa un'esigenza di business, perché l'alternativa aver perso tutte le informazioni non è sempre applicabile. Certo, comunque mi confermi che questo è uno degli attacchi più diffusi ancora oggi? Assolutamente, essendo un attacco che richiede un investimento molto piccolo per poter essere portato a termine, che produce dei ritorni sull'investimento molto alti, è sicuramente uno dei fronti sui quali la criminalità sta investendo molto. altri tipi di attacchi, cose brutte che accadono? Stiamo vedendo in questo momento un aumento molto forte di un'altra tipologia di attacco, dove la componente tecnologica è meramente che arriva per email e lì finisce la parte tecnologica, dove sfruttano, questi sono attacchi mirati evidentemente, sfruttano le procedure interne di determinate aziende nello spostare il denaro, quindi nel fare bonifici, per farsi fare bonifici. Quindi scrivono al responsabile dell'area finanza a nome dell'amministratore delegato dicendo: fai un bonifico a questo IBAN. Sto semplificando un po'. Una delle vittime più famose di questo tipo di truffa è Mattel, che ha bonificato per davvero 3 milioni di dollari, e un'altra è Ubiquiti, che di milioni di dollari ne ha bonificati 47. Certo, uno dice: ma possibile che cadano in queste truffe? È possibile, perché sono fatte molto bene. Sì, dovendo parlare di trend, non tanto della tipologia di attacco, ma di che cosa sta succedendo, là fuori è oramai incontestabile il fatto che la criminalità tradizionale stia replicando i modelli di business propri di altri tipi di truffe online. Il ransomware è esattamente il parallelo del rapisco qualcuno e chiedo il riscatto. E sono organizzati oramai esattamente come fossero un'azienda. Io in alcune conferenze mi permetto di definirla la Cybercrime SPA, perché se andiamo a vedere, cioè, c'è proprio un organigramma, cioè, ci sono proprio le funzioni aziendali preposte al fare alcune cose. E quello che sta diventando spaventoso in termini di cosa arriverà, abbiamo cominciato a vedere che molti di questi attacchi oramai non sono neanche più gestiti da degli esseri umani, sono macchine che portano avanti attacchi automatici contro altre macchine che ci cascano automaticamente, e quindi un qualche cosa di terrificante a volerlo proiettare in un futuro di medio termine. Intelligenza artificiale che combatte contro altra intelligenza artificiale, vista in un altro, da un altro punto di vista. Esiste una graziosa battuta sull'intelligenza artificiale che racconta proprio questa cosa. Si dice che la vera intelligenza artificiale sa superare con successo una cosa che si chiama il test di Turing. La battuta dice: non mi preoccupa tanto quando una macchina saprà passare il test di Turing, quanto la macchina che sarebbe in grado di passarlo ma deciderà di proposito di non farlo. Certo. Recentemente ho partecipato a molti eventi in cui si parlava di dati e del valore dei dati, che è forse una uno dei temi di maggior dibattito in questi tempi. Quanto valgono i miei dati e quanto potrebbero valere di più se io da questi dati riesco a ricavare delle informazioni preziose, riesco a generare nuovi servizi, riesco a cambiare anche il modello di business della mia azienda proprio basandomi sui dati che ho in azienda o che potrei avere raccogliendo un maggior numero di dati. Se guardiamo tutto ciò con gli occhiali della cyber security, i dati hanno sicuramente un valore importantissimo oggi, tant'è che da anni, io ripeto, il valore di tante aziende non sta nel magazzino quanto nelle informazioni che conservano. Quindi io sarei un grande fan, per esempio, di una voce di bilancio dell'azienda che quantifichi il valore di quelle informazioni, perché è molto più rilevante dei computer e delle stampanti che teniamo sui tavoli. Evidentemente è possibile fare anche il contrario, è possibile valorizzare economicamente l'impatto di un danno. Evidentemente ci sono danni molto semplici da valorizzare, semplici tra virgolette. Si ferma la mia rete di computer aziendali, quindi non è più disponibile il sistema informativo. Le assicurazioni da anni sanno stimare queste cose con gli algoritmi di business interruption, che è assimilabile al ha preso fuoco l'ufficio, nessuno può più lavorare. Mentre su altri tipi di danni, ad esempio quello reputazionale, evidentemente molto più spesso si parla di una forbice, un intervallo di valori, che non di un valore specifico, ma anche quelli sono evidentemente danni che è possibile stimare a priori. Questa stima non viene quasi mai fatta, tolto che ha dei costi molto importanti, quindi non è a disposizione di chiunque, perché bisogna avere la capacità economica per farlo, ma secondo me è l'unico strumento pensabile per poter organizzare una strategia coerente di difesa. Non esiste il rischio cyber, esiste un rischio aziendale, e l'attacco informatico dovrebbe essere e l'incidente informatico dovrebbero essere gestiti esattamente alla stregua di tutti gli altri rischi aziendali, come quello finanziario, come quello di terzi, come quello di mercato, e deve essere trattato dalle stesse persone che trattano quei rischi. All'amministratore delegato, se io vado a dire guarda che se succede questa cosa otterremo un danno da 1 milione di euro, quindi possiamo o spendere 200.000 euro per abbassare la probabilità piuttosto che l'impatto di questo danno, oppure possiamo assicurarci, quindi non investiamo quei soldi. Lui è in grado di compiere quella scelta in maniera coerente al modello di business dell'azienda. Se invece io vado a dirgli sai, potrebbero arrivarci per email dei virus, potrebbero arrivarne 10 quest'anno, perdiamo qualche ora di lavoro, che facciamo? Quello mi taglia il budget perché non capisce l'entità del rischio e quindi non è in grado di prendere una decisione in maniera efficace. Tu hai detto che è più che difficile, costoso. Spiegami meglio questo aspetto. La parte inquietante è che un'azienda che oggi decida di voler compiere un'operazione del genere ha bisogno di trovare un team di esperti con competenze diverse. Ad esempio, servirà chi ha le competenze di security per poter estrarre i dati utili a calcolare il risultato, ma poi chi calcola il risultato non è un informatico, è qualcuno esperto di modelli matematici, statistici e quant'altro. E questo evidentemente sono competenze molto rare sul mercato e molto preziose, e per cui è un tipo di servizio che ha dei costi, non voglio dire da multinazionale, però parliamo di decine di migliaia di euro per un'analisi simile. La parte inquietante che anticipavo è che le aziende non stanno facendo questo, neanche molte multinazionali, a differenza dei criminali che ci attaccano, che lo stanno facendo in maniera perfetta. Non so se ricordi la notizia di qualche tempo fa, offrivano $23.000 ai dipendenti di Apple per comunicare il nome utente e la password che digitano la mattina sul computer quando arrivano in ufficio. Io non entro nel merito se quei soldi sono tanti o pochi, il mio problema è che c'è qualcuno che ha pensato che cosa farà di quell'informazione, quanti soldi potrà guadagnarci, con che indice di rischio, e di conseguenza è stato in grado di dimensionare l'investimento che è disposto a fare per poterci attaccare, mentre noi stiamo ancora a fare i foglietti di Excel con scritto rischio rosso, rischio verde, di questo preoccupati tanto, di questo poco. E questa era la voce di Alessio Pennasilico, Security Evangelist a Obiettivo Technology e membro del comitato direttivo del CLUSIT, che è l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. Per anticipare alcune email che sicuramente mi scriverete, anzi io le leggerò con molto interesse, così come leggo tutte le email che mi arrivano con estremo interesse, anche alcune che possono sembrare banali mi interessano, quindi non abbiate timore, scrivete, però sicuramente alcuni diranno vabbè, però non avete pagato di quanto vengono pagati questi professionisti. Questo è un capitolo che lasciamo a parte, anche perché potremmo dibattere per tanto tempo, andremo anche a toccare dinamiche che sono del sistema paese, molto complesse, molto complicate, penso che non facciano parte della discussione di questo programma. Quindi il problema di quanto vengono pagati i professionisti dell'IT è un problema, però non mi sembra il caso di andare ad approfondire, anche perché poco si risolverebbe. Invece abbiamo sollecitato i nostri ascoltatori a, se avete la possibilità, magari intraprendere un certo percorso formativo, perché comunque c'è lavoro. È sempre meglio un lavoro non pagato tantissimo piuttosto che zero, quindi su quello non ci sono dubbi. E poi io penso che nei prossimi anni ci sarà una evoluzione anche in questo settore, perché l'IT diventa sempre più importante e vedrete che prima o poi alcuni CIO cominciano a dirlo, l'IT sta diventando una fonte di guadagno per le aziende piuttosto che una fonte solo di costo, un centro solo di costo. Questo è 2024, siete all'ascolto della nostra versione podcast. Ci fermiamo per un secondo, tre secondi, due secondi, parliamo tra pochissimo di smart working. Riprendiamo questa puntata versione podcast. Come sempre vi consiglio di suggerire l'ascolto nella versione podcast in particolare, poi se volete farlo anche durante le nostre dirette, durante i nostri appuntamenti nel palinsesto di Radio 24, venerdì ore 22, domenica ore 13:30, con una nostra mini replica. Nella versione podcast però c'è il vantaggio di poter ascoltare tutte le nostre interviste in versione integrale, e normalmente quando ci riesco, non sempre è possibile, ma offro un'ora di programma in podcast a fronte dei 45 minuti grosso modo che o 47-48 che ascoltate durante l'ora del nostro palinsesto il venerdì sera. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024, scritto in cifra, 2024 e radio24.it. Non mi scrivete su Facebook perché molto difficilmente vi rispondo. Su Twitter ogni tanto, ma insomma utilizzate la email. Adesso parliamo di smart working e ne parliamo perché questa è un'evoluzione del mondo del lavoro scatenata dalla tecnologia. Fiorella Crespi è il direttore dell'osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano, uno degli osservatori digitali. Benvenuta. Grazie. Ti faccio subito dare una definizione di quello che per voi è smart working o appunto detto anche lavoro agile. Sì, per noi lo smart working è una nuova filosofia manageriale, un nuovo modo di reinterpretare il lavoro all'interno delle organizzazioni che si basa sulla restituzione di autonomia e flessibilità alle persone nella scelta di luoghi, orari e strumenti, quindi tecnologie da utilizzare per lavorare, a fronte però di una responsabilizzazione sui risultati, quindi un cambiamento del modo di concepire il lavoro, dal lavoro quando sono in un posto, in un certo orario e faccio certe attività, al lavoro in ovunque io sia e qualsiasi cosa io uso, purché raggiunga i miei obiettivi. Bene, alcuni potrebbero pensare è il telelavoro, no, è il telelavoro è una piccola parte di tutto ciò. Sì, il telelavoro è un qualcosa di un po' diverso. Il telelavoro è un spostare il luogo fisico di lavoro dall'ufficio alla propria abitazione. Lo smart working è un qualcosa di un po' più ampio, è un ripensare il modo proprio di vivere il lavoro, quindi non vuol dire sempre lavorare presso la propria abitazione. Vuol dire avere la possibilità di scegliere quando mi conviene lavorare a casa, perché ho delle attività che si prestano per essere svolte a casa dove ho magari più concentrazione, o invece quando è utile che io vada in ufficio presso i miei clienti e lavori con i miei colleghi. Quindi è la possibilità di scegliere. Il telelavoro non ha questa forma di flessibilità. Sì. Federico Bianchi ha fondato una società che si chiama Smart Working, che si occupa proprio di questi temi. Benvenuto Federico. Grazie. Secondo te quali sono i vantaggi principali lato lavoratore, lato azienda? Ma principalmente i vantaggi sono, se vogliamo guardare sul lato della persona, è la possibilità di avere una maggior flessibilità nella propria gestione del tempo e del luogo di lavoro. Questo quindi porta sostanzialmente a liberarsi da alcuni vincoli che ci ha imposto in qualche modo il modello fordista del casa lavoro e quindi ci mettono all'interno di una sorta di gabbia. La possibilità invece di avere una scelta nei tempi e nei luoghi ci permette in qualche modo di avere maggior libertà espressiva, diciamo che poi si collima con le necessità nel mondo moderno di andare verso lavori maggiormente creativi. Certo. E quindi i vantaggi principali per l'azienda? Allora, partendo dagli aspetti più semplici, possiamo vedere il vantaggio nel risparmio, nella necessità di spazi aziendali. Nel contesto nel quale il lavoratore non deve più presidiare ogni giorno la scrivania che gli è stata assegnata nel modello, non smart working, classico, mm-hmm. chiamiamolo così, a questo punto si crea un modello di rotazione che porta ad una necessità di spazi che è inferiore rispetto al 100% della disponibilità di utilizzatori. E questo è il primo beneficio tangibile. C'è tutta una tematica invece legata ai benefici intangibles, ovvero intangibili, ovvero quelle cose che non sono magari direttamente misurabili, ovvero ho una forza lavoro che è più vicina all'azienda perché si sente più in qualche modo accolta, è più certo, se io vado incontro alle esigenze, esatto, io riesco a dare di più. E in qualche modo anche gli spazi possono aiutare in questo senso, e quindi poi è un vantaggio che è duplice. Infatti credo che poi il valore di questa crescita di interesse verso il tema dello smart working è perché è un vantaggio per entrambe le parti. Sì. E quindi tutti gli attori che ruotano intorno al mondo del lavoro stanno portando il loro apporto su questo tema perché c'è un vantaggio per tutti. Sì. C'è anche Fiorella, c'è anche una legge in discussione, vedremo quali saranno poi i risultati di questa legge, perché forse potremmo dire che i vantaggi, poi non vorrei esagerare, ma sono anche per il sistema città, il sistema paese. Certamente, accanto ai benefici che correttamente citava Federico, c'è sicuramente un impatto anche sulle città e sugli ambienti. Non avere le persone che tutte si recano in ufficio alla stessa ora ha un impatto sul traffico, sull'inquinamento, che si sente nelle grandi città, ma che ha uno strascico anche nei paesi un po' più periferici. Quindi pensiamo al pendolarismo, quindi sicuramente questo è un effetto significativo. Poi, se posso magari aggiungere un'altra considerazione che abbiamo visto all'interno delle ricerche dell'osservatorio, è vero quello che dice Federico, persone più motivate sono un valore per l'azienda, ma sono anche persone che lavorano meglio, sono più produttive, fanno anche dei lavori di qualità, e quindi questo ha un tornaconto, un impatto anche sulle prestazioni dell'azienda. E molto spesso anche lo smart work inizia a diventare un modo per riuscire ad attrarre i talenti, quindi le persone nuove che si approcciano al mondo del lavoro, o anche le persone non necessariamente i giovani, ma in generale, iniziano ad apprezzare molto questo aspetto di flessibilità, tanto da andare magari a chiedere durante i colloqui di lavoro se le aziende lo mettono a disposizione, e in alcuni casi, a fronte di una risposta negativa, magari anche rivedere un po' la propria candidatura. Recentemente ho parlato con una persona che lavora in un'azienda che fa massiccio uso di smart working, un'azienda americana, perché questi modelli nascono in quell'ambito, e soprattutto un'azienda di tecnologia, che mi diceva proprio questa cosa: sto cercando un lavoro alternativo perché mi piacerebbe cambiare, ma questo è uno degli scogli, cioè la flessibilità che io ho con questo lavoro. Certo che questo richiede anche un cambiamento culturale, organizzativo, una capacità di misurare i risultati diversa, perché si deve passare dal classico lavoro in cui io ti vedo, tu sei lì, poi magari stai perdendo tempo in altro modo perché magari stai guardando Facebook sullo smartphone, ad un modello invece per cui io non ti controllo a vista, ma tu raggiungi un obiettivo diverso. Esatto, non controllo te, ma controllo i tuoi risultati. Certo. Quindi dalla cultura del, appunto, controllo visivo, al imparo a darti degli obiettivi, a verificare che tu li raggiungi, e poi quindi a valutarti anche su base di quello. Senti, voi nell'osservatorio avete presentato tra l'altro recentemente i dati dell'aggiornamento di questo osservatorio che avete attivato da qualche tempo. Ci dite che il lavoro agile è in crescita, e ovviamente stiamo parlando di una cosa nuova. Esagero se dico che è una cosa molto molto molto nuova e che coinvolge ancora pochissimi lavoratori, se noi guardiamo a tutto il territorio italiano, proprio all'Italia estesa? Sicuramente sì, è una cosa ancora nuova, ma con dei tassi di crescita e di sviluppo che noi abbiamo monitorato essere molto, molto interessanti, con uno sviluppo molto rapido. Ad oggi, se guardiamo le aziende, sembra quasi ci siano due velocità. Da una parte le grandi aziende, quelle con più di 250 addetti, che si stanno muovendo in maniera proprio decisa verso lo smart working. Lo scorso anno, nella nostra rilevazione, erano il 17% delle aziende del campione che facevano smart working. Quest'anno, analoga rilevazione, siamo al 30, quindi un passo sicuramente decisivo in questa direzione. I progetti, chiaramente, per la complessità che citavi tu, sono a diversi livelli, però è un messaggio importante. Sulle piccole e medie imprese, invece, una velocità un po' più ridotta. Infatti la percentuale di diffusione è del 5% nel 2016 ed è la stessa del 2015. È sicuramente, quindi, considerata la rilevanza delle piccole e medie imprese in termini di impatto sul paese, un fenomeno che in questo ambito deve ancora svilupparsi, quindi ancora un po' marginale. C'è un effetto di questa trasformazione che prima Federico citava gli spazi, e stiamo andando verso una dimensione in cui anche lo spazio diventa un servizio. Allora, qua spieghiamo che cosa stiamo per dire, che cosa intendiamo. Noi stiamo osservando, sempre a causa o grazie alla tecnologia, che molte cose stanno diventando un servizio. Che ne so, software as a service, cioè il software che non te lo vendo più e tu ti porti a casa una scatola e te la installi, ma ti compri un servizio. Nel mondo tecnologico questo è abbastanza diffuso. Che ne so, lo spazio sull'hard disk, non ho più il mio hard disk ma uso il cloud e pago il servizio. Questo concetto del spazio come servizio, come si sta trasformando sia all'interno delle aziende che anche in strutture più diffuse sul territorio? Beh, diciamo che la manifestazione, come dire, di trasformazione dello spazio come servizio è in qualche modo rappresentato dal mondo del coworking, che è un fenomeno che nasce in America, diciamo, all'inizio degli anni 2000, per freelance che avevano la necessità di trovarsi, perché nella solitudine della propria casa c'era comunque un problema poi di tenuta, e quindi nasce la necessità di unirsi. Questa cosa oggi nel 2016 invece è diventato sostanzialmente anche un business, ovvero ci sono fior di aziende, diciamo chi da più tempo, chi da meno, che sta investendo in questa opportunità, per cui dare la disponibilità alle aziende di avere degli spazi che si possono affittare per del tempo in ottica di postazione, non di metro quadro, con un grandissimo vantaggio dal punto di vista soprattutto della condivisione, ovvero del fatto che non sono più un'azienda autoreferenziale con il suo spazio e le sue persone, ma sono un'azienda calata all'interno di una realtà che contiene altre aziende che fanno cose più o meno correlate con quello che faccio io, e quindi c'è una maggiore opportunità di scambio, certo, e di relazione. Per chi non conosce gli spazi di coworking, diciamo che sono spazi dove ci sono scrivanie, connessione ad internet. Non è detto che ci sono dei computer, perché spesso io mi porto il computer portatile e poi mi attacco alla rete. Difficile che ci sia un computer. E come funziona? Su abbonamento? Sì, funziona su abbonamento. Il modello tradizionale è di acquisti di abbonamenti mensili per postazioni che possono essere, diciamo, riservate, e quindi con la mia scrivania, con la mia cassettiera, eccetera, oppure spazi più flessibili dove ogni sera devo liberare lo spazio perché domani potrà esserci un'altra persona. Certo. Ogni sera o ogni alba? Ogni alba, sono sì, aperti, assolutamente. Sono aperti 24 ore su 24, molti di questi. Io pago un mensile che può essere di 150, 200 euro, sì, 250, questo fino, è l'ambito. Sì, diciamo che stiamo parlando dai 150 ai 300 euro. È anche molto... Al mese, sì. Ed è una realtà estremamente variegata. Sì. Ci sono tantissime contesti diversi. Dirò anche che la crisi immobiliare degli ultimi tempi ha fatto esplodere questi spazi, perché c'erano società che avevano a disposizione un sacco di spazi che potevano essere adibiti a ufficio e hanno approfittato del fatto che magari non li affittavano, e quindi hanno creato degli spazi di coworking con grande successo. Quanti ce ne sono a Milano? Giusto per avere un'idea, che è stata una delle capofila di questo. A Milano si parla di circa 90 spazi. Per mettere in collegamento questi spazi di coworking che stanno effettivamente crescendo e diventando molti in tutta Italia, tu hai un'idea pensata per le aziende, ecco, in che cosa consiste? Allora, è sicuramente un'idea che ha avuto anche una sua manifestazione durante la giornata del lavoro agile di questo mese di febbraio 2016. Che è stata fatta a Milano, che è stata un po' capofila anche dal punto di vista della pubblica amministrazione per stimolare le aziende ad avvicinarsi a questa flessibilità con tutti i benefici che diceva prima Fiorella, anche per la collettività. Abbiamo fatto questa sperimentazione nel quale abbiamo messo in rete circa 80 spazi di lavoro al quale di fatto hanno partecipato più di 100 persone prenotando una giornata di lavoro per il 18 febbraio 2016, e abbiamo avuto un ottimo riscontro, nel senso che più di 80 persone hanno lavorato in 30 spazi diversi, e la possibilità era di scegliere su tutto il territorio, diciamo, di Milano. Abbiamo fatto anche una survey per conoscere il feedback, il percepito, ed è stato molto positivo vedere che le persone hanno valutato il lavorare in uno spazio condiviso diciamo più produttivo che lavorare da casa. Quindi la tua idea è quella di trasformare, cioè rendere diciamo l'insieme dei coworking sostanzialmente un servizio a disposizione delle aziende, quindi scegliere quali potrebbero essere le mie sedi satellite che possono venire incontro o alle esigenze dell'azienda o a quelle dei lavoratori che magari non hanno gli spazi nelle proprie case o vogliono incontrarsi in team in maniera, come dire, ristretta, perché devono gestire una progettualità particolare, e quindi sfruttare questi luoghi e poterli prenotare al limite giornalmente. Certo, il roaming degli sì, spazi di coworking. Mi piace. O il cloud anche, perché posso acquisire risorse quando mi servono e rilasciarle quando non mi servono più. Se ho capito bene, l'idea potrebbe essere quella di realizzare un'applicazione che è collegata, previo accordo naturalmente, con tutti quelli che ci stanno, gli spazi di coworking, e io posso scegliere. E ovviamente tutto il lavoro poi di organizzazione che sta dietro è un lavoro complesso, però potrebbe essere una idea sicuramente molto, molto interessante. Vorrei parlare anche di tecnologia, perché io ho detto tutto ciò è nato non solo grazie alla tecnologia, ma diciamo che la tecnologia ha un ruolo molto importante. Di che tecnologia stiamo parlando? Dunque, le tecnologie che supportano lo smart working, per come le abbiamo classificate, sono essenzialmente raggruppabili in quattro diversi gruppi. Innanzitutto ci sono le tecnologie di social collaboration, tutto ciò che supporta la collaborazione fra colleghi ma anche in reti esterne all'azienda, anche a distanza, quindi tutti gli strumenti che permettono di chattare a distanza, di fare delle videoconferenze utilizzando il proprio PC piuttosto che di condividere gli spazi condivisi in rete o in cloud in cui ciascuno mette i documenti e ci si può anche lavorare contemporaneamente, quindi tutto ciò che permette di rendere efficace la collaborazione anche se le persone non sono fisicamente nella medesima sala riunioni. Questo è il primo gruppo. Il secondo sono tutte le tecnologie a supporto della mobilità, siano essi gli strumenti, quindi vari smartphone, tablet, ma anche PC portatili che permettono alle persone di lavorare in modo mobile e non vincolate alla scrivania, sia all'esterno della postazione di lavoro e della propria sede di lavoro, sia anche all'interno degli uffici certo. in cui lavora, sì, sì, perché smart working è anche fuori. Da una scrivania all'altra. Esatto, in altri questi, ambienti. Questi forse sono i più diffusi e quelli più comprensibili, cioè più facili da capire, no? Certo, chiaramente. È importante però far sì che alla diffusione di questi device, di questi strumenti che sono già forse un po' diffusi, però si accompagni anche lo sviluppo di applicazioni che permettono, oltre alla banale ormai posta elettronica sullo smartphone, anche di fare altre attività di condivisione piuttosto che di allineamento sui progetti. Quindi è sicuramente vero che sono diffusi, ma a questo bisogna anche fare una serie di investimenti di sviluppo di applicazioni. Sì, sì, sì, software e tutto quello che va attorno, come tu dicevi prima, strumenti di collaborazione sono anche, devo dire, culturalmente più difficili da, cioè bisogna imparare a usarli. Esatto, perché poi c'è un tema anche di usabilità e di imparare a capire quando usare il giusto strumento. Terzo elemento, tutto ciò che permette di accedere ai propri applicativi aziendali anche dall'esterno della propria sede di lavoro in modo altrettanto efficace, quindi qua tutto il tema del cloud e con tutti gli aspetti anche legati alla sicurezza che questo richiede, anche questo è un altro gruppo di tecnologie fondamentali per lo smart working. E poi il quarto gruppo sono le tecnologie legate a un utilizzo più efficace degli spazi fisici, perché come dicevamo, smart working non è solo lavorare fuori dall'azienda presso la propria abitazione oppure presso gli spazi di coworking, ma lavorare in modo diverso anche in ufficio. Quindi tutti gli strumenti, ad esempio, di prenotazione di sale riunioni in maniera un po' più interattiva rispetto alla classica intranet aziendale, piuttosto che i sistemi di prenotazione anche delle postazioni di lavoro o il wifi. Sicuramente più diffuso ma altrettanto fondamentale, o i sistemi di stampa intelligente che permettono di stampare in maniera non vincolata alla propria postazione ma in una qualsiasi stampante dell'edificio. Anche queste tecnologie sono abilitanti dello smart working. Senti, le tecnologie sono più o meno disponibili, diciamo che da questo punto di vista non ci sono dei grossi problemi, forse è il grado di utilizzo delle tecnologie che è un problema. Sì, molto spesso queste tecnologie sono già presenti in azienda ma ancora vengono poco sfruttate e poco si conosce anche le loro funzionalità, quindi magari le persone, pur avendo a disposizione, hanno un po' timore di capire come si possono utilizzare o paura che magari rappresentino degli strumenti, non so, di controllo ad esempio, no? Il fatto che il mio capo veda quando sono online con l'iconcina verde, uno può pensare che sia questo, invece bisogna un po' superare questo aspetto anche lavorando attraverso la formazione, facendo un po' di cultura sull'utilizzo di questi strumenti e facendo capire che sono strumenti utili alla persona, al lavoratore in prima persona. Quindi bisogna un po' superare questo preconcetto e utilizzarli perché effettivamente sono fondamentali per lavorare meglio. Certo, vi faccio una domanda che è un tema di dibattito. Noto, però il mio osservatorio non è come l'osservatorio del Politecnico, che poi ci sono un sacco di strumenti anche pensati per le aziende professionali, ma poi per strumento di collaborazione si usa WhatsApp, che uno dice ma forse non è proprio lo strumento giusto. Tu, Fiorella, cosa dici? Sì, è vero, c'è un po' questa tendenza perché molto spesso sembrano strumenti più semplici da utilizzare. Bisogna un po' cercare di, a volte anche è necessario utilizzarli e si può anche fare, cioè, però, a volte va bene, sì. A volte va bene, però bisogna capire il contesto d'uso, non è sempre lo strumento giusto, ci sono altri strumenti un po' più sicuri piuttosto che più corretti per farlo. Chiaramente in alcuni casi quando devo avvisare dei colleghi che sono in super ritardo per una riunione, WhatsApp può essere utile, sì, sì, ma certo. Non per tutto il resto. Sì, sì. Beh, Federico? No, dico, è un tema di diffusione, nel senso che visto che WhatsApp ce l'ha il 95% delle persone, c'è un tema di efficacia che è indiscutibile. Questo chiaramente però deve essere visto come, diciamo, come un'opportunità, nel senso che se le persone hanno la possibilità di poter di poter condividere un tema, forse bisogna trovare lo strumento che in qualche modo riesca a fare la stessa cosa. Secondo te sono questi strumenti, recentemente è stato annunciato Workplace, che è il Facebook aziendale, Microsoft ha addirittura acquistato società che si occupano di questo, di questi servizi, esiste Slack, che è un'altra piattaforma molto utilizzata. Secondo te sono effettivamente più efficaci e pensati per l'azienda, quindi andrebbero utilizzati, e quindi sono effettivamente superiori a le varie chat aziendali, le varie chat popolari? Allora, diciamo che hanno un requisito fondamentale, un requisito di sicurezza. Questo è un principio fondamentale in un contesto di, diciamo, di lavoro, ovvero che le mie informazioni rimangano all'interno di una sfera che l'azienda ha deciso essere il proprio perimetro. Quindi in questo senso la garanzia che danno gli strumenti, appunto come hai nominato tu, di Microsoft piuttosto che insomma, di Cisco, altri, è il tema della sicurezza, nel senso che poi dal punto di vista dell'usabilità c'è poi tutto un vantaggio nella condivisione dei documenti, che rimangono delle tematiche di integrazione, per cui io posso integrare, diciamo, l'esperienza di lavoro su un documento e di condivisione contestuale con delle altre persone. Il tema fondamentale è il fatto che le persone non sono più necessariamente una di fronte all'altra, e quindi ci vuole uno strumento che permetta di collegarle e di farle comunicare e di farle condividere un documento, per esempio. In questo è fondamentale questo tipo di tecnologia. E poi anche, come diciamo, diceva Fiorella, il tema di educare le persone, perché non siamo mai stati abituati, comunque arriviamo dal fax, dall'email, cioè è un percorso, e questo percorso oggi, diciamo, ci trova di fronte al tema del lavorare con le chat, che sembra una cosa strana apparentemente, però per esempio io, che ho un'iniziativa imprenditoriale già nata negli anni primi anni 2000, noi subito abbiamo sempre lavorato con le chat, in quel caso era quella di Google. Vabbè, ma voi siete giovani, ma come si... Certo, però Fiorella, anche tu sei giovane, molto giovane, siamo tutti giovani, però, però capisco che poi nelle aziende insomma, ci sono varie difficoltà. Fiorella, a proposito di tecnologia, tu prima accennavi all'utilizzo degli spazi di lavoro all'interno delle aziende. Allora, visto che ho anche visitato dei palazzi nuovi dove ci sono tutta una serie di tecnologie, che ne so, la sensoristica che aiuta a quella organizzazione a cui tu facevi riferimento. Mi dici qualcosa di questa trasformazione? Sì, è molto, molto interessante, perché gli uffici stanno diventando, dall'unico luogo in cui la persona andava per lavorare, in cui gli ambienti erano un po' tutti uguali, c'era l'ufficio singolo, l'open space e la sala riunioni, a spazi in cui le persone vanno per socializzare, per collaborare, e quindi gli ambienti di cui hanno bisogno sono sempre più diversificati. E a guidare la riprogettazione degli spazi fisici delle aziende un po' più avanti e un po' più sensibili rispetto a questo tema è il concetto dell'attività di lavoro. Quindi gli spazi, gli ambienti vengono organizzati e progettati e poi costruiti creando ambienti che siano in grado, con i loro arredamenti, la loro impostazione, le tecnologie, di supportare diverse esigenze che le persone hanno quando lavorano. Esigenze di concentrazione, quindi magari ci sono degli ambienti un po' più piccoli, un po' più raccolti, in cui molto isolati a livello acustico, in cui le persone vanno quando devono rimanere isolate perché hanno un lavoro che richiede concentrazione. Oppure ci sono spazi di collaborazione in cui gli ambienti sono un po' più ampi, ci sono magari delle tecnologie che permettono di collegare colleghi che magari sono da remoto, condividere uno schermo o interagire anche su dei proiettori. Oppure ci sono ambienti per la comunicazione, quando magari devo fare una comunicazione che sia utilizzando il telefono, o quindi virtuale o di presenza, un po' riservata, quindi ambienti che devono essere protetti, schermati, in modo che il collega in open space non senta, perché magari si tratta di informazioni riservate. E quindi anche gli ambienti di comunicazione sono importanti. E poi ci sono gli ambienti un po' destinati alla creatività, quindi un po' magari meno formali, senza scrivanie, ma magari con delle ambientazioni un po' particolari per stimolare la creatività di alcune persone, come si fa brainstorming. Sì, sì. In alcuni di questi uffici servono anche per fare un po' di marketing, cioè per le aziende, per dire guarda come siamo bravi. Poi in realtà il cambiamento è meno, perché il cambiamento è molto più che architetturale, è un cambiamento organizzativo di cultura, questa è la parte più importante. Però Federico, ci sono delle viene in mente che dovrei fare una puntata con degli architetti che si occupano di questo, anche se stiamo parlando di una punta di eccellenza, ci sono pochissimi uffici fatti così in Italia, ci sono alcune aziende che lo stanno facendo, ma ci sono proprio dei sensori che ad esempio mi dicono se la sala che è stata prenotata effettivamente si è riempita di persone, perché magari è stata prenotata poi nessuno ci va e di conseguenza il riscaldamento e il raffrescamento interagisce in base alle persone che ci sono, giusto? Sì, esatto, esatto. Queste, diciamo, è centrato uno dei punti, ovvero la tecnologia applicata agli ambienti permette di, diciamo, di creare un'interazione tale per cui appunto un sensore può sapere la presenza di persone, quindi regolare le temperature, oppure una cosa molto importante che riguardo alle sale riunioni, molto spesso succede che le persone prenotano le sale riunioni e per qualche motivo poi non la utilizzano. In questo caso che cosa succede? Che sul calendario aziendale la sala è occupata, ma realmente è vuota. Allora ci sono sistemi che permettono di verificare che se la persona attraverso un tablet fuori dalla porta non fa un check-in, quindi non fa un tap per dire si libera la sala. Si libera la sala dopo dei tempi che vengono stabiliti, in modo tale che possa essere presa da altre persone, oppure dei sensori che addirittura riescono a rilevare la presenza, cioè l'occupazione di una scrivania. Quindi attraverso il calore umano, sono degli oggetti, dispositivi che stanno sotto alla scrivania, rilevano la presenza della persona. Questi possono essere utilizzati sia in fase di analisi, quindi capire poi l'effettivo utilizzo degli spazi, oppure comunque per conoscere su una mappa al di fuori dell'open space se in quello spazio esiste almeno una scrivania libera, in modo tale che se c'è entro e vado a posizionarmi, altrimenti vado a cercare un altro spazio. Quindi anche evitare questi tempi morti di quando si cerca nelle aziende uno spazio dove poter fare una riunione oppure lavorare, eccetera. Stiamo parlando di fatto di Internet of Things, della Internet degli oggetti. Sì. All'inizio dell'anno, durante il Consumer Electronics Show, mi ricordo di aver fatto un'intervista ad un'azienda americana che utilizza questi sensori per fare una cosa un po' diversa, per capire quanto i lavoratori si muovono dalla scrivania per motivi di salute. Cioè lo scopo era far sì che all'interno di un'organizzazione si ponessero degli obiettivi tali per cui tu dopo 2 ore che sei seduto sulla scrivania ti devi muovere. Poi c'è tutto il tema, sapete, negli Stati Uniti ci sono le assicurazioni che per prime controllano che le persone facciano magari sport, si muovano, perché così poi pago meno di assicurazione perché sta male meno, no? Però è tutto un tema collegato. Quindi ci sono degli altri esempi di Internet of Things legata al mondo dello smart working che ti vengono in mente, Fiorella? Ma in realtà quello che dicevi tu è un filone che si sta sempre più diffondendo anche qua, quindi la sensibilità del benessere della persona quando è in ufficio, quindi iniziano a diffondersi magari delle app che ti dicono a te persona che magari sei stata seduta troppo tempo, ti devi alzare, devi fare un giro. E questo fa un po' in parte di un concetto un po' esteso di smart working, di cura della persona e del suo benessere quando si trova in ufficio o anche all'esterno. Quindi sicuramente questo è un aspetto di evoluzione della tecnologia con il tema dell'Internet of Things o delle app, dei wearable anche, che tanto si stanno diffondendo nella nostra vita personale, che monitorano quanto ci muoviamo, quanti chilometri di corsa facciamo. Sicuramente andranno a diffondersi sempre più anche nelle aziende per monitorare questo aspetto di benessere. Ti faccio una domanda sulle aziende. Voi avete lavorato con poco più di 300 manager di varie aziende. Ci sono effettivamente dei progetti di smart working concreti e diffusi o stiamo parlando di un'eccellenza di poche persone? Ma ci sono dei progetti che si trovano a un diverso stadio di maturità. Ci sono delle aziende in cui lo smart working è già diventato un modo di lavorare, di concepire il lavoro esteso a tutti, quindi soprattutto le aziende che operano nel mondo dei servizi, dell'informatica, già un po' tutti lavorano in modo smart. Ci sono altre aziende che lavorano magari in settori un po' più tradizionali, che hanno dei progetti di smart working che però magari ad oggi riguardano una parte limitata della popolazione, ma vi sono comunque dei progetti che hanno come unità di riferimento circa 200-300 persone in ogni azienda, quindi sono comunque progetti che, se anche non riguardano la totalità della popolazione, sono molto estesi e in settori di aziende molto diverse, quindi non solo appunto il tema dei servizi, ma anche nel mondo finanziario, banche, assicurazioni, nel mondo manifatturiero, nel mondo dell'alimentare. Poco invece per quanto riguarda la pubblica amministrazione, dove invece da questo punto di vista siamo ancora molto indietro, anche se qualche piccola iniziativa iniziamo a vederla. Bene, grazie a Fiorella Crespi per essere stata con noi, che è la direttrice dell'Osservatorio Smart Working all'interno degli osservatori della School of Management del Politecnico di Milano. A presto, buon lavoro. Grazie anche a te. E anche grazie a Federico Bianchi con la sua Smart Working. Grazie, grazie mille. Beh, a proposito di servizi che servono per prenotare spazi all'interno di vari spazi di co-working, prenotare magari una scrivania oppure un ufficio, una sala riunioni all'interno di uno spazio di co-working in varie città, da segnalare Share Desk, che è forse uno dei servizi più noti, molto utilizzato dai freelance, desk.works. E poi ci sono vari servizi che cercano di fare questo. Quello a cui facevamo riferimento poco fa, che è un progetto già pronto di Federico Bianchi, è fare un servizio per le aziende. Quindi io ho un'azienda con tutti i miei lavoratori che possono scegliere di andare anche, e ovviamente questo si, a tutto ciò si presta molto bene la città, però una grande azienda che magari insiste su una particolare città può decidere di estendere il proprio ufficio all'interno di tutti gli spazi di co-working che ci sono all'interno della città. Quindi può essere sicuramente un'idea interessante, mentre altri servizi che già esistono soprattutto per i freelance, che sono sparsi naturalmente sul territorio, by design si potrebbe dire. È tutto per questa puntata di 2024, come sempre grazie per la vostra attenzione, torniamo la prossima settimana, siamo in onda il venerdì alle 22, domenica alle 13.30 con una mini replica. Il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, vi ringrazio ancora per l'ascolto, ci risentiamo la prossima settimana.